Dunque, come avete sentito, proseguono le proteste nell'università contro i progetti di riforma del ministro Gelmini. Ieri però il governo ha annunciato che contro le proteste violente in particolare la polizia potrebbe in qualche modo intervenire. Allora, oggi vogliamo parlarne con due studenti universitari che in modo diverso naturalmente partecipano alla vita dell'università, degli Atenei e anche alla vita politica con posizioni diverse. Insomma, chi sta in queste ore protestando perché evidentemente non condivide questi progetti di riforma del governo e chi invece vorrebbe che l'attività regolare delle università andasse avanti. Allora salutiamo Daniele D'Ambra, studente occupante di lettere alla Sapienza di Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti. E Cristiana Licata, di Scienze Politiche, di Azione Universitaria, che invece l'università non la vorrebbe occupare. Buongiorno anche, buongiorno a te. Tutti. Allora, cominciamo con Daniele, di lettere, occupata in queste ore a Roma. Ieri il Presidente del Consiglio ha detto: non permetteremo che vengano occupate le università, perché è un fatto non di democrazia, ha detto, ma di violenza. Il ministro Gelmini, da parte sua, invece ha chiesto anche lei di abbassare i toni per riaprire il dialogo. Allora, accogliete questi appelli oppure continuate, volete continuare a protestare? Ma la protesta continuerà sicuramente, perché come abbiamo detto in questi giorni, a noi non sembra violento chi occupa, quanto piuttosto chi vuole dismettere l'università pubblica, chi vuole dismettere la scuola pubblica, come stanno facendo il governo e la Gelmini. Del progetto di riforma Gelmini parliamo magari più nel dettaglio anche tra un attimo. Vorrei però tornare ancora un attimo sulla protesta invece, perché ieri so che alla Sapienza si è diffuso lo slogan "io non ho paura", però insomma qualche timore magari per interventi della polizia potrebbe anche esserci. Non temete l'arrivo della polizia magari per sgomberare l'università? Assolutamente no, anche perché come ha dichiarato ieri il rettore Guarini, per l'arrivo della polizia all'università ci vuole la sua autorizzazione, appunto, e mi sembra che il rettore si sia abbastanza decisamente schierato, dicendo appunto che non ci sarà nessun intervento della forza pubblica, ma in nessun senso noi comunque avremmo avuto paura, perché siamo determinati rispetto a quello che stiamo facendo. Chi dovrebbe aver paura è il governo, perché la protesta sta montando, non è vero che siamo una minoranza, anzi. Cristiana Licata, ha fatto bene Berlusconi a dire che la polizia dovrà intervenire contro chi protesta impedendovi, perché tu sei tra quelli che vorrebbe entrare di fare lezione. Vi sentite davvero minacciati dai vostri colleghi? No, guarda, io non sono d'accordo, nel senso che la debba intervenire la polizia per liberare l'università, perché anche io ho fatto delle proteste in passato e continuo a farle, quindi non penso che sia la polizia che debba intervenire all'interno dell'università, però allo stesso tempo penso che dovrebbe essere l'autorità accademica, quindi in questo caso il rettore, a dover mantenere un po' più di ordine all'interno dell'università. Ordine non significa, come molto spesso viene interpretato, nel senso che non bisogna impedire alle persone, agli studenti di manifestare, bisognerebbe solo garantire a chi, agli studenti che vogliono partecipare, seguire le lezioni, agli studenti che magari sono fuori sede, hanno pagato le tasse, pagano un affitto anche salato e si iscrivono all'università e vogliono partecipare all'attività didattica, di partecipare e di non trovare la mattina all'università in subbuglio. Tu fai parte di Azione Universitaria, che fa direttamente riferimento al Popolo della Libertà, e questo non è un mistero. Nella protesta però in questi giorni ci sono anche rappresentanti di studenti di destra. Il Secolo, peraltro, il quotidiano che fa riferimento ad AN, oggi scrive: questa protesta non ha una connotazione ideologica, la sinistra sta provando a metterci il cappello, ma noi non dobbiamo fare l'errore di non esserci. Azione Studentesca, che pure è un gruppo di studenti vicini alla destra, dice: di fronte a un'ingiustizia è giusto comunque opporsi. Insomma, è così, non è questione di destra o di sinistra? No, ma infatti così io ci tenevo a dirlo. Noi non vogliamo schierarci con la Gelmini, cioè noi, anche specificatamente come Azione Universitaria a Roma soprattutto, ci siamo subito distanziati dalla concezione che noi siamo, per tutto quello che fa il governo, siamo pro Gelmini. Noi siamo schierati subito contro il blocco della didattica. Certo, se vengono dette alcune falsità, alcune cose che non vanno bene, perché in questi giorni gli slogan sono stati un po' demagogici e hanno fatto capire agli studenti alcune cose che fondamentalmente non sono vere come vengono anche scritti dagli organi di stampa, e soprattutto sull'università noi, appunto, se ci sono questi tagli che ci saranno, saremmo sicuramente tra quelli che protesteranno, anche perché anche noi, se l'università non viene migliorata, diventeremo precari e quindi non potremo avere un futuro lavorativo. Sì. Ecco, vediamo allora di fare un po' di chiarezza. Vediamo di fare allora un po' di chiarezza. Daniele D'Ambra, dall'altra parte, studente occupante di lettere. Hai sentito, questi tagli non ci sono, e invece voi dite che ci sono. Cosa c'è che non va nel progetto della Gelmini? Il mio collega, appunto, dice che ci sono falsità, ma non dice esattamente di quali falsità si tratti. La legge 133 approvata dal Parlamento parla chiaro. Ci saranno tagli all'FFO, cioè al Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Università, che in queste cifre, le dico con precisione così almeno si fa chiarezza, 63,5 milioni per il 2009, 190 per il 2010, 316 per il 2011, 417 per il 2012, 455 per il 2013, per un totale di 1,5 miliardi di euro in 5 anni. Considerate che il Senato Accademico della Sapienza a luglio basta vedere i verbali, ha dichiarato che non si potevano neanche pagare gli stipendi con tagli di questo tipo, e che quindi l'ordinario svolgimento dell'attività dell'università sarebbe stato in qualche modo impedito da tagli di questa entità. Inoltre vorrei dire un'altra cosa: evidentemente il mio collega in qualche modo non è passato all'università, perché se fosse stato presente avrebbe visto che non è vero che il blocco della didattica vuol dire assenza di lezione, ma trasformazioni di lezione in altro o in altra forma. Cristian, ci sei stato in università? No, io ci sono stato in università molte volte, anzi a me, grazie anche al movimento che Andrea rappresenta, non so se lui in particolare, non mi viene impedito Daniele, mi viene impedito di entrare all'università, quindi non è quello il problema di nostalgia. Ci sto tutti i giorni all'università e vedo quello che succede. Il problema è che secondo lui convertire una lezione in qualcos'altro può essere qualcosa di positivo, ma ci sono tanti altri studenti che non la pensano come lui. Se io mi iscrivo all'università e voglio fare la lezione che devo seguire il corso per poi andare a fare l'esame, una lezione convertita in qualcos'altro può anche non interessarmi o può anche non essere quello per cui mi sono iscritto all'università. Quindi una domanda secca per tutti e due, per chiudere un po' questo dibattito: l'università italiana va bene così com'è, Daniele? No, l'università italiana non va bene così com'è, ma andrebbe riformata in senso totalmente opposto rispetto a quanto sta facendo il governo. Cristian, va bene così com'è? No, io penso che così non va bene l'università, nel senso, l'ho detto anche prima, sto dicendo che sono totalmente a favore di questo, sto dicendo solo che su alcune cose, allora, sui tagli possiamo anche essere critici se verranno realmente effettuati questi tagli. Io quello che sono, con cui sono critico, naturalmente sono critico su altre questioni, cioè sul dire che l'università verrà privatizzata, sul dire che comunque l'università, e poi la cosa che mi sembra abbastanza strana è lo schierarsi gli studenti con i professori. I professori è normale che siano contrari a qualsiasi riforma di questo tipo, perché comunque vengono, l'università italiana, specialmente università come la Sapienza, sono rette da baronati e comunque vogliono difendere solo i loro interessi. Insomma, pareri diversi. Su questo non sono d'accordo, anche perché all'interno... No, fermiamoci qua, scusa Cristian, perché altrimenti non la finiamo più. Il tempo purtroppo non era tantissimo a disposizione. Allora ringraziamo, lo ricordiamo, Daniele D'Ambra, studente occupante di lettere. Ringraziamo Cristian Alicata, studente di scienze politiche, che l'università invece non la vorrebbe occupata. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi.